Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci state ascoltando al 6.45, buon termine di serata, come sempre amo dire a chi ci ascolta alle 20.45 in replica. Allora, la mail, ve la ricordo, unabusoalgiorno@radio24.it, laddove il mio blog è Guardie o Ladri e lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, alcuni giorni fa, leggendo Il Piccolo di Trieste, il 4 marzo del 2009, nelle cronache di Trieste mi ha colpito questo articolo. Esuli, una commissione parlamentare sull'indennizzo dei beni abbandonati. Cosa accade? Accade che alcuni deputati, Roberto Antonione del PDL, Carlo Monai dell'Italia dei Valori, Ettore Rosato, Alessandra Maran del Partito Democratico, in maniera bipartisan, come potete capire, hanno proposto di chiudere al più presto il capitolo per il risarcimento degli esuli. Di chi parliamo? Di quei cittadini istriani, fiumani e dalmati che alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale sono stati costretti ad abbandonare i propri beni. C'è una legge, la legge 137 del 2001, che sta facendo un cammino per il risarcimento. Fatto sta che le due cose non si contrappongono, anzi dovrebbero raggiungere o cercare di raggiungere il medesimo obiettivo, che è quello di risarcire chi ha dovuto lasciare i propri averi in quelle terre. Quindi un abuso sicuramente nei confronti di cittadini italiani, e siccome chi mi segue sa quanto ami il mio paese, io voglio parlare di questa vicenda. Lo faccio con chi? Con l'onorevole Ettore Rosato. Buongiorno. Che è uno dei politici impegnati nel chiudere la vicenda, e con Massimiliano Lacota, che è il presidente dell'Unione degli Istriani. Buongiorno Lacota. Buongiorno a voi. Allora, partiamo da lei, Rosato. È un'iniziativa che ha soltanto un effetto annuncio, o come dire, vuole mettere un po' di pepe sulla coda di chi sta facendo passare troppi anni, diciamo, dalla chiusura di una vicenda che va chiusa? Ma diciamo che vuole mettere un po' di pepe, non è una proposta di legge con effetto annuncio. Abbiamo la piena consapevolezza che il problema non si risolve semplicemente con una commissione, ma c'è bisogno di una forte volontà politica del Parlamento italiano. I temi sono ampi, sono quello della restituzione dei beni, sono quella dell'indennizzo che per troppi anni sta andando avanti con un rallentamento, e poi ci sono tante altre questioni che le associazioni degli esuli hanno rappresentato in più occasioni, che sono oggetto di un tavolo a Palazzo Chigi, prima voluto dal governo Prodi, oggi che prosegue con il governo Berlusconi, su cui le associazioni stanno ponendo una serie di priorità. Assolutamente. Ed infatti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, se non sbaglio, è impegnato in questo ruolo di trade union, o sbaglio, Rosato? No, assolutamente, in termini anche molto positivi. L'onorevole Letta sta facendo un gran positivo lavoro in questo, così come lo faceva prima suo nipote. Esattamente. C'è una continuità, diciamo, di famiglia. Una continuità di famiglia. Ecco, lei ha richiamato l'impegno delle associazioni, e noi abbiamo appunto Massimiliano Lacota che, come presidente dell'Unione degli Istriani, sicuramente potrà dirci qualcosa in più su questa vicenda. Allora, quali sono i temi ancora sul tappeto, Lacota? Ma guardi, i temi sono parecchi e anche diversi fra loro, tutti riconducibili alla catastrofe dell'esilio dovuta alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto dovuta ad impegni precisi che l'Italia, attraverso i suoi governi, avevano preso con la sottoscrizione del Trattato di Pace, ma che purtroppo non hanno mai mantenuto a distanza di oltre 65 anni dalle prime fughe dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Ora, naturalmente, il tema principale è senz'altro la restituzione dei beni, in quanto vi sono ancora nei territori ceduti, ora in Slovenia e Croazia, dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, dicevo, beni liberi e addirittura interi villaggi liberi con case vuote nazionalizzate dal regime jugoslavo e poi passate in proprietà ai comuni della Slovenia e della Croazia, che però potrebbero essere restituibili immediatamente. Ecco, questa è la prima cosa che noi guardiamo. Che voi chiedete, certo. Ecco, io vorrei chiederle questo: come vivono questa situazione gli italiani che lì sono rimasti? Cioè, questi villaggi appunto abbandonati, beni che dovrebbero essere restituiti vengono vissuti come cosa? Come un ricordo del passato? Come una zavorra pesante? Oppure invece c'è una linea di continuità tra noi, tra voi e chi lì è rimasto? Ma guardi, la questione anche in questo caso è estremamente complessa. Le associazioni degli esuli non hanno grossi rapporti con l'Unione Italiana, cioè l'organizzazione politica, l'organismo poi ufficiale che raccoglie gli italiani che sono rimasti in quanto scelsero di rimanere e quindi abbracciando, naturalmente parliamo dei capi di allora di questa organizzazione che è nata proprio con Tito, l'Unione Italiana era nata proprio con Tito addirittura nel 1944, questi esponenti di allora erano totalmente collaborazionisti con il regime jugoslavo, cioè volevano rimanere in Jugoslavia per costruire quello che sarebbe dovuto diventare un paradiso socialista e per il quale appunto anche molti concittadini italiani, quando arrivavano i primi treni di esuli in Italia, naturalmente c'erano quelle polemiche e soprattutto quelle accoglienze disastrose, non certamente da conterranei e concittadini. Certo, ora, certo. Questi villaggi che sono abbandonati non sono più stati ripopolati né dalle popolazioni balcaniche che la Jugoslavia aveva portato, aveva condotto dalla Serbia, dalla Macedonia, dal Montenegro verso le coste istriane, e anche per un altro motivo, perché chi vorrebbe anche acquistarle in molti casi non si fida, in quanto sui libri fondiari e quindi sui catasti locali il proprietario, nonostante il provvedimento di nazionalizzazione di confisca, il proprietario è un cittadino italiano che nel 90% dei casi, se non più, è esule. Certo, quindi abbiamo certo. A distanza di tanti anni questo problema che, laddove è possibile, noi chiediamo venga risolto con la restituzione di beni, di case, di immobili che sono ancora lì, magari qualcuna senza tetto, senza finestre, ma sono lì pronte per essere restituiti a chi ne ha diritto. Ecco, cari radioascoltatori, questo è un pezzo di storia d'Italia che va ricordato. Spesso i libri scolastici fanno, come dire, mille volte il giro delle guerre puniche, poi non si arriva a conoscere invece la storia contemporanea o la storia dell'altro ieri. Ed è per questo che questa puntata mi fa particolarmente piacere. Ed allora chiedo a questo punto a Ettore Rosato, che nel precedente governo Prodi è stato anche sottosegretario ad un ministero che era quello dell'interno, però che appunto aveva visto proseguire i contatti per risolvere la problematica dei beni da restituire agli esuli. E chiedo dunque a Rosato, ma che tipi di rapporti oggi l'Italia ha con la Slovenia e con la Croazia? Rapporti che possono indurre ad un ottimismo oppure ad una fase di stallo che non è giusto che continui nei confronti di nostri concittadini depredati di beni loro? Ma in questa fase bisogna dire che poi il tema della restituzione è un tema molto delicato, perché riguarda i rapporti tra i paesi, il senso di appartenenza dei singoli paesi e anche, per quanto attiene Slovenia e Croazia, il fatto che si sentano sempre meno possibile, si sentono sempre a disagio nell'essere gli eredi dell'ex Jugoslavia, anche in questo. Naturalmente è un tema su cui l'Italia deve muoversi con grande delicatezza, ma io credo anche con decisione, perché ci sono due canali. Uno è giustamente quello degli indennizi, canale che oggi va troppo lentamente, in cui gli indennizi non sono neanche equi sotto il profilo finanziario, e l'altro è quello della restituzione, che nessuno pensa debba essere integrale o chissà cosa, ma ci sono alcuni beni che oggi sono che sono disponibili e che non sono utilizzati da nessuno, sia in Slovenia che in Croazia, dove io credo il rapporto bilaterale tra i diversi paesi che sono in Europa o ambiscono a entrare in Europa possa consentire un atto di giustizia. Certo, io ringrazio intanto l'onorevole Rosato per il suo intervento e do l'ultima parola al nostro ospite Massimiliano Lacota, che ripeto è a capo dell'Unione degli Istriani. Nel ringraziarlo gli vorrei fare questa domanda. Lei è tornato o torna nei luoghi che furono cari a lei e ovviamente alla storia della sua famiglia? Ma certamente, guardi, tutti gli istriani tornano almeno una volta l'anno, cioè quando vanno a fare visita ai loro morti, quindi nei primi giorni di novembre, mettono un fiore sulle tombe che sono anche in pericolo perché molte vengono arbitrariamente divelte per far posto agli nuovi abitanti oramai da molti anni e quindi con difficoltà mantengono le tombe, ma comunque questo è uno dei principali motivi. Qualcuno frequenta i luoghi d'estate, siccome l'Istria è una delle principali mete turistiche, anzi direi la principale della Croazia soprattutto, quindi c'è questo rapporto estremamente fugace e saltuario. Qualcuno invece ha dei parenti che sono rimasti e quindi la riposizione familiare in qualche modo è più viva. Certo. Questa è la situazione. Rosato è un amico anche dell'Unione degli Istriani e sa benissimo come non pochi la situazione e tutte le sue sfaccettature. Per quanto riguarda questa commissione, personalmente io la vedo un po' delicata, nel senso che esistendo appunto, come diceva lei all'inizio di questa parte della trasmissione, una legge, la 137, che dovrebbe essere rivitalizzata con nuove risorse economiche, purtroppo rimane il fatto che il personale a disposizione per lo smaltimento delle pratiche, per gli accertamenti del caso è estremamente insufficiente, si parlano di poche persone e quindi la cosa va a rilento e temiamo che una commissione potrebbe, non dico fermare la 137, ma causare un motivo, un pretesto per fare alcune rivalutazioni e purtroppo mandando avanti altri ritardi. Ecco, speriamo che ovviamente così non sia. Io ringrazio i nostri ospiti, in regia Fabio Cantadori e in studio Laura Fagin, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.